Primeiro, a gente tem que olhar para a conjuntura política no Brasil, entender que um pouco antes do período eleitoral, na verdade, já desde o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, um golpe. Per capire le circostanze politiche del paese, dobbiamo guardare un po' indietro, già dal golpe contro la presidente Dilma Rousseff, un golpe dalle caratteristiche misogine, e avevamo già lì la costituzione di un mostro chiamato PT, attraverso l'uso dei media, della stampa, che costituirono una narrativa secondo cui il PT aveva distrutto il Brasile e la Speranza. Quindi si arriva al periodo elettorale in cui ci troviamo già con Marielle assassinata e Lula imprigionato, e così arriviamo alle elezioni di Jair Bolsonaro, che stava già da 30 anni nel Parlamento brasiliano e che era conosciuto per essere un uomo solo un'aberrazione politica, dato che non ha mai proposto nessun tipo di progetto di aggregazione per la popolazione brasiliana e non si sapeva collocare a livello diplomatico e politico. Era conosciuto solo per le cattiverie e le stronzate che diceva, quindi dall'essere uno scherzo di cattivo gusto si è convertito a presidente della Repubblica attraverso una campagna fatta da fake news e dentro di un golpe in cui è stato dimostrato che il giudizio di Sergio Moro non è stato imparziale e in cui è stata dimostrata anche la partecipazione del Ministero Pubblico per mettere fuori gioco Lula, dato che era l'unico modo per far sì che Bolsonaro venisse eletto. Il giornale Intercept mostra la partecipazione del Ministero Pubblico, la partecipazione del juiz Sergio Moro, então juiz, stava lì julgando il caso di Lula, di maniera che non fu imparziale. E viene eletto attraverso questo discorso di odio, per cui le persone erano molto stanche dal punto di vista politico e senza speranza. E a causa delle circostanze politiche del Brasile si crea un'atmosfera politica in cui qualsiasi cosa andava bene purché non fosse il PT. Per cui ad oggi il Brasile è un paese estremamente razzista, maschilista, misogino. E questa riproduzione del discorso di Bolsonaro, che è sempre stato un discorso violento, misogino e maschilista, ha finito per rivelare l'appoggio di persone che hanno sempre sostenuto ideali simili ai suoi. E poiché lui stava facendo questo discorso violento, allo stesso modo le persone si sentono legittimate attraverso le sue parole a trasporre questa violenza in campo sociale senza sentirsi preoccupati per nessun tipo di giudizio. E così si arriva in un clima sociale in cui la violenza è molto latente perché è legittimata nelle parole stesse di Bolsonaro. Autorizzate di poter fare questo no campo sociale senza che tivessem preoccupate con algum tipo di julgamento, con algum tipo di punição, enfim. E aí a gente chega num clima che è un clima. Ma credo che sia necessario capire che non possiamo combattere l'odio con l'odio, perché così riproduciamo solo più Bolsonaro in giro per il mondo. Per cui abbiamo bisogno di un discorso di solidarietà anche nella pratica, anche perché l'avanzo della violenza legittimata e del conservatorismo sta diventando un'avanzata globale e credo che le persone siano molto sfiduciate e questa è una missione molto ardua, cioè quella di ridare un recupero di questa speranza. E sostengo che la risposta di solidarietà delle persone nei confronti della figura di Marielle è un po' una risposta globale delle persone che ancora credono in una società più equitaria. Acredita numa sociedade mais justa, mais igualitária e tá disposta a lutar por isso. Le istituzioni possono apportare un cambiamento al paese e come possono unirsi agli attuali movimenti dal basso? Quem faz modificação são as pessoas, né? As pessoas, inclusive, são as que compõem as instituições, que compõem a rua também. É uma construção que ela tem que ser feita de forma. Chi fa le modifiche sono le persone che compongono le istituzioni e la strada. Per cui è una costruzione che deve essere fatta in modo ampio e collettivo. È chiaro che le istituzioni possono fare molto, dal momento che però uniscano gli interessi della popolazione e non per fare politiche proprie. Per esempio, nel caso di Rio, l'assassino di Marielle, che aveva un significato e un messaggio a tutta la popolazione nera, periferica, LGBT e favelada, era un messaggio di violenza e della politica odierna che non accetta che le persone come Marielle occupino uno spazio di potere. E questo messaggio è stato dato con questo proposito, ma fu accolto in maniera differente, perché l'idea era quella di instaurare la paura e fare in modo che queste bandiere che Marielle rappresentava fossero indietreggiate, fossero scoraggiate. Come você muito bem colocou, no Rio de Janeiro a gente teve três mulheres negras eleitas a deputada estadual, uma mulher negra eleita a deputada federal. Todas tinham relação com a Marielle. Ma di fatto l'effetto fu il contrario, perché a Rio tre donne sono state elette deputate statali e una donna nera viene eletta deputata federale e tutte avevano una connessione con Marielle. Abbiamo avuto diverse donne in Brasile con l'amministrazione, incluse donne nere trans, che occupano spazi della politica e delle istituzioni. E ciò dice molto. Importante che venga fatta questa lettura, perché ci dice molto non solo dello scenario della violenza, della politica fatta con l'odio, ma che c'è bisogno anche di parlare delle persone che fanno politica in un'altra maniera. Marielly ha avuto una ripercussione a livello internazionale dopo essere stata assassinata, e le persone hanno potuto vedere un nuovo tipo di politica che veniva fatta. E credo che non possiamo aspettare di soffrire una violenza così grande per far vedere al mondo un altro tipo di politica. Pertanto ci sono molte persone che stanno portando bei progetti dentro gli spazi di potere, e credo che ciò funziona di forma collettiva, se io so per chi vado a votare. Per cui c'è bisogno di collocare persone che facciano una politica diversa, in cui io credo di poter modificare il clima d'odio. E da raiva e da politica meschina e bassa che ele faz, perché ele é isso. Então eu preciso de alguma maneira. Perché se si vota per qualcuno come Bolsonaro, non posso che aspettarmi una politica d'odio, dato che alla fine dei conti, se le persone vedono le istituzioni come un problema, questo sembra essere un problema che non è mio, isolato, e questa è la politica che fa Jair Bolsonaro, una politica guidata dall'odio. E questo tipo di politica si è sempre basata sul fatto che la colpa è dell'altro, e se il problema dell'altro non può essere mio. Ed è questo il discorso a cui noi siamo stati abituati da molti anni, e dobbiamo capire che non può essere accettato. È nostro dovere modificarlo, altrimenti siamo sempre qui a lamentarci quando già la cazzata è stata fatta. Per cui dobbiamo capire sempre chi mettiamo negli spazi di potere per costruire questo spazio di istituzionalità differente. Ma attenzione in chi a gente coloca na instituição para construir esse espaço da institucionalidade. Potremmo parlare delle pratiche che i movimenti mettono in atto per coscientizzare le persone su chi voteranno e quanto è importante la politica in un contesto sociale come quello della favela e del Brasile contemporaneo. Una delle difficoltà molto grandi che si ha in Brasile è fare la popolazione si interessare per politica. Una delle difficoltà più grandi che si ha in Brasile è che la popolazione si interessi di politica, perché in Brasile cresciamo fin da piccoli ascoltando che tutti i politici sono corrotti e che la politica non cambierà e che non è qualcosa per poveri. Questo in parte è vero, solo che il rafforzamento di questo discorso è un progetto di potere ed è un'idea che serve per castrare la popolazione affinché non si coinvolga nella politica, e così facendo questa continua a stare nelle mani di uomini bianchi, ricchi, misogini e fondamentalisti, e così non si cambia. Per cui credo che la grande chiave per dare una svolta a questa storia è far sì che la popolazione creda possibile una politica del popolo e per il popolo, perché affinché ciò non accade è davvero scoraggiante parlare di politica quando non ci si sente rappresentati per nulla da quella politica che non solo non mi rappresenta, ma mi ferisce, mi uccide, distrugge tutto il progetto di società differente. Per cui a volte è quasi un istinto di sopravvivenza stare lontani da questo, ed è questo il pensiero che deve essere modificato, ma ci darà molto lavoro. E se è presto essere modificato, ma vai da molto lavoro. Perché secondo te la donna è diventata volto della resistenza a livello transnazionale, simbolo delle lotte anche in connessione con le battaglie delle indigene? Na verdade, eu acho que se você for olhar para a história do mundo, sempre foi a mulher o centro da modificação. Beh, in realtà è sempre stata la donna il centro della modificazione e dell'energia. È questo che abbiamo ora, e quello che abbiamo ora è un levante, un'onda di potere, e finalmente le donne iniziano a decostruire l'idea che siamo rivali, perché questo è un progetto del patriarcato a livello globale, costruito dagli uomini, e ha sempre messo le donne nel luogo della rivalità. Credo che oggi stiamo decostruendo questa idea, e ci stiamo impadronendo e capendo che siamo in disordine, che siamo disorganizzate, e non è così che possiamo avanzare in questa modificazione, perché abbiamo smesso di competere fra noi, capendo che siamo quelle che soffrono di più la violenza nella società da sempre, ed è adesso che vogliamo cambiare questa storia, capendo anche che non siamo sole, perché non avremo mai un cambiamento se ci sentiamo sole o facendolo in maniera isolata, perché le poche volte che abbiamo cercato di farlo da sole siamo state massacrate, chiaramente perché questo non aveva un'articolazione. Le poche volte che tentamos fazer de maneira isolada, nós fomos massacrate justamente por isso, porque não tinha uma articulação. E al giorno d'oggi credo che il movimento femminista, il più articolato e senza alcun dubbio, è in corso una rivoluzione. Nella mia opinione il movimento femminista dovrà reinventarsi molto a breve e guardare anche altre cose, come per esempio non si può parlare di femminismo senza dire che questo debba essere anticapitalista, perché una donna nera in Brasile non ha gli stessi privilegi di una donna bianca che lotta per un salario uguale all'uomo bianco. Al contrario, la donna nera non ha mai avuto la possibilità di non lavorare. Per cui stiamo parlando di un femminismo che deve articolare come antirazzista, anticapitalista, antifascista, ecologico e antiomofobico. E deve abbracciare tutte queste bandiere perché il femminismo non può lasciare corpi indietro. Non può escludere, per esempio, la donna trans da questa rivoluzione. Non può escludere questi corpi. Nessun corpo può essere lasciato indietro se non si percepisce questa unità. Ma credo che questo processo sia già in corso. Per poter avanzare nessa rivoluzione. Ma io acho che sta in corso. Intersecional, sem dúvida nenhuma, isso é.